La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Prima puntata dell'anno della Rosa Purpurea, buon 2013 a tutti, anche se è iniziato già da quasi una settimana, ma insomma è la prima volta che ci ritroviamo in questo nuovo anno con la nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Un'ora intensa oggi, è molto molto intensa, passate le feste e gabbato lo santo, è arrivato anche il momento di rimettere in sala, in circuito film importanti. Diciamo che dopo la volata natalizia, da oggi in poi comincia la volata verso gli Oscar. E le prossime settimane saranno davvero molto molto piene, intense, sia sul fronte del cinema italiano che di quello internazionale. Ne è un saggio proprio la puntata odierna, la settimana odierna, con tanti nuovi film in sala, tanti spunti di interesse. E allora noi entriamo subito, facciamoci la bocca con il nostro antipasto, il solito antipasto, che è quello dei titoli di testa. Il felpato mondo delle aste e del collezionismo d'arte al centro de La migliore offerta. Il nuovo film venato di thriller, firmato da Giuseppe Tornatore, con Jeffrey Rush e Donald Sutherland, e le musiche di Ennio Morricone. Un po' poliziotto, un po' agente segreto, in incognito e in perenne missione. È Jack Reacher, l'attore senza paura dei bestseller di Lee Child, che ora sbarca sul grande schermo impersonato da Tom Cruise. Dirige Christopher McQuarrie, premio Oscar per la sceneggiatura dei Soliti Sospetti. Dopo i premi per la regia e i protagonisti maschili alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva nelle sale The Master, il film ispirato alla vicenda umana e storica di Ron Hubbard, fondatore di Scientology, con una grande interpretazione di Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix. Dirige Paul Thomas Anderson, già autore di Magnolia e Il Petroliere. Cos'è rimasto della Sarajevo multietnica e tollerante dopo la distruzione della guerra in Bosnia? È il tema di Buon anno Sarajevo, ritratto di una generazione che fa i conti con un passato drammatico e riflette sui segni e sulle ferite che il conflitto ha lasciato nel cuore dell'Europa. Insomma, avete sentito tante tante novità. Noi vogliamo cominciare con quella forse più attesa, almeno per quanto riguarda il cinema americano, il grande cinema, i grandi autori. Qui parliamo di un autore come Paul Thomas Anderson, che, come abbiamo detto, dopo Il Petroliere è ancora più lontano da Magnolia, torna a esplorare quelli che sono gli anfratti, diciamo così, della psiche umana in questo film The Master, che è stato un po' il film che ha, se vogliamo, colonizzato un po' l'attenzione, catechizzato l'attenzione mediatica all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Un film che, tra l'altro, potrà, come dire, anche avere una sua visibilità nella sfilza di premi che arriveranno da adesso fino praticamente alla notte degli Oscar. Allora entriamo subito nel clima del film con una clip e poi ne parliamo. Ci saranno persone all'esterno che non capiranno la vostra malattia. Ora sulle vostre spalle poggia la responsabilità del mondo del dopoguerra. Un bel sorriso? Potete mettere su un'attività, una stazione di servizio, un alimentari, un ferramenta, comprare qualche ettaro di terra e allevare polli. Stai per andare in pausa? 10 minuti. Se un civile qualsiasi avesse subito lo stress cui siete andati incontro voi, senza dubbio avrebbe sviluppato lo stesso disturbo nervoso. Freddy Quell, il protagonista Joaquin Phoenix di The Master, è tornato dalla guerra nel pieno di un esaurimento nervoso. Le cure palliative dell'esercito servono solo a esaltarne la dipendenza dal sesso. Qui Fred affianca un'incredibile propensione per le misture fra alcolici e idrocarburi. Avete sentito bene, si beve di tutto, compresa la benzina dei siluri, che fanno malissimo ovviamente, ma almeno lo fanno pensare un po' meno alla sua condizione umana. Insomma, l'uomo è difficile da recuperare, sbandato e violento, viene raccattato da una nave, anzi è lui che ci salta letteralmente sopra, sulla quale conosce la persona che gli cambierà la vita, ovvero Lancaster Dodd. Come ci sono finito qui? Avevi un comportamento aggressivo dovuto all'eccesso di alcolici. Lei di cosa si occupa? Ah, sono uno scrittore, un medico, un fisico nucleare, un filosofo teoretico. Ma soprattutto io sono un uomo, proprio come te. Ha scritto tutta la notte. Sembri una fonte di ispirazione per lui. Ciò che faremo adesso provocherà in te il bisogno di un'esistenza all'interno di un gruppo, una società o una famiglia. Ma la scienza, per definizione, ammette più di un'opinione, altrimenti è la volontà di un solo uomo, che è il fondamento di un culto. È a questo che siamo arrivati. Dobbiamo giustificarci. E di cosa? L'unico modo di difenderci è attaccare. Svegliati, Val. Tuo padre sta parlando. Forse impari qualcosa. Sta inventando tutto di volta in volta. Non te ne rendi conto? E allora, scrittore, medico, filosofo, ma soprattutto plasmatore di menti deboli, Dodd ha creato una dottrina che sfiora la setta, è stimolato dall'istinto quasi animalesco di Fred Quell, tanto da far partire una serie di esperimenti sulla sua psiche, cui Fred si presta come una cavia affascinata. Inizia un sodalizio che vedrà la strana coppia percorrere un lungo tratto di strada fianco a fianco, ma ogni cane, randagio, prima o poi, tende a mordere la mano del padrone che l'ha nutrito. Questo è un po' il racconto di The Master, un film anche importante in termini di durata, 137 minuti, di grande cinema visivo da parte di Paul Thomas Anderson, magari narrativo non sempre, ma visivo sicuramente sì. L'ispirazione si è detto a Ron Hubbard, a Dianetics, alla vicenda di Scientology, ma il film va molto più in là. Paul Thomas Anderson continua insomma il suo lavoro sulla psiche umana, come dicevamo, continua a cercare negli anfratti reconditi della nostra mente. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris, questo The Master è un film che diciamo troverà il suo pubblico in Italia, non è un film sempre semplice, è un film che si presta a molte letture, come la vedi tu? Ma credo che troverà il pubblico che ha trovato sempre, nel senso Paul Thomas Anderson è forse insieme a Tarantino il regista più riconoscibile, quando vedi un suo film capisci semplicemente che è suo e non è così scontato. Qui si ha l'impressione che lui voglia chiudere un dittico, cioè quello che aveva aperto con Il Petroliere, raccontando come il capitalismo pionieristico e il trovare il petrolio potesse aver cambiato come una sorta di conquista dell'West l'anima, la natura del popolo americano. Così adesso racconta come una religione, una setta, Pigmalione che ha avuto un ruolo importante all'interno della crescita spirituale, o come molti invece dicono all'interno dell'involuzione più o meno bigotta della spiritualità americana, racconta questo. Lo racconta secondo me bene per i primi tre quarti d'ora, cioè finché il personaggio di Joaquin Phoenix è qui curiosamente in una parte in cui quasi imita Daniel Day-Lewis, cresce, finché quel personaggio si forma, si plasma sotto le mani di Lancaster, ma soprattutto della, tra virgolette, diabolica moglie, veramente, della setta, che chiaramente ricalca la storia di Scientology. E infatti se Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman sono sicuramente di alto livello, Amy Adams a mio parere è superlativa. E poi dopo i primi 45 minuti, secondo me, l'evoluzione che c'era nel Petroliere, che era straordinaria, qui si perde. Il film diventa una sorta di criceto che corre su se stesso e cammina sempre nella stessa direzione senza arrivare da nessuna parte, e diventa una didascalica visione di che cosa può diventare una comunità che si arrotola su un leader e su affermazioni e informazioni apodittiche. Sempre interessante, ma a mio parere non c'è il solito coraggio di Paul Thomas Anderson, non c'è la solita cattiveria. Alla fine forse è quasi troppo accondiscendente verso questi personaggi, verso cui invece dovrebbe essere molto più cattivo, e parlo di tutti e tre. Di sicuro è un film di valore, di sicuro ha meritato anche il premio che ha avuto a Venezia, però partendo dal presupposto che è un buon film, io ammetto che mi ha deluso. Forse all'inizio prometteva talmente tanto che mi aspettavo che mantenesse ancora di più. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma. Tra i film sicuramente più importanti di quelli che arrivano in sala in questo fine settimana, tra l'altro con un paio di giorni d'anticipo rispetto agli altri, c'è La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, un film che segna il ritorno in sala in Italia del regista premio Oscar per Il nuovo cinema Paradiso, ma del regista di tanti film da lì, da 25 anni a questa parte, che hanno segnato un po' il percorso di un artista sicuramente sempre molto interessante, magari non sempre perfetto, ma sicuramente molto interessante. E allora parliamo adesso della migliore offerta, un film ambientato nel mondo dell'arte, delle aste, degli antiquari, ma è un film soprattutto che racconta due umanità molto particolari, anche molto difficili, che si incontrano. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi l'otto 231. E Miss Claire, che altro può dirmi sul suo conto? Ha una stranissima malattia. Parlare le parla, ma attraverso una porta chiusa. Una porta chiusa? Vuol dire che non l'ha mai vista in faccia? Non solo lui, nessuno la vede. Lei è qui, Miss Ibbotson? I sentimenti umani sono come le opere d'arte, si possono simulare. Perché evita sistematicamente di incontrarmi? Io invece volevo dirle di non occuparsi più del mio patrimonio. Mi mandi il conto delle spese. Buonanotte. E allora, avete sentito un po' questa clip tratta da La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, un film che racconta di un sessantenne antiquario, battitore d'aste, molto apprezzato nel suo ambiente, si chiama Virgil Oldman, un uomo che ama smodatamente il lusso, che spinge la sua riservatezza ai limiti della misantropia, non tocca cose che altri toccano, beve con i bicchieri di vetro serigrafati con le sue iniziali, sempre con un tovagliolo, insomma un uomo che ha anche un po' paura del contatto esterno e che si trincera dentro questa sua capacità di amare il bello, quasi volesse creare attorno a sé un mondo astratto, fatto solo di bellezza e non, purtroppo, come capita a tutti noi mortali, anche di tante brutture. Un giorno Virgil Oldman riceve un incarico telefonico da Claire Ibbotson, giovane erede di una ricca famiglia, che gli chiede di stimare la valutazione degli oggetti che arredano la sua villa: statue, lampadari, mobili d'antiquariato preziosissimi, una villa un po' decadente da fuori. Siamo in un posto non precisato, anche se c'è molta Austria dentro le riprese, ma il posto non viene mai citato come tale. E allora questa villa decadente, dove vive questa ragazza, che chiede questa valutazione. La particolarità è che Claire Ibbotson non vuole mai farsi vedere, quasi alter ego di Virgil, che non vuole mai essere disturbato al telefono, non vuole mai farsi passare una telefonata. Vedere, sentire, i sensi sono molto importanti in questo film. E allora, da prima riottò persino a ricevere appunto le comunicazioni telefoniche di Claire, che sembra quasi più una scocciatrice che altro, però pian piano Virgil viene attratto, incastrato quasi in questa da questa figura con cui sente più di un punto di contatto. La confidenza fra i due sale, i contatti con una porta di mezzo, lei per non farsi vedere, lui per portare i contratti, le valutazioni, le stime, crescono sempre di più, la loro confidenza sale sempre di più, fino a quando con una sorta di escamotage Virgil scopre il segreto di questa donna, e da quel momento non riuscirà più a liberarsi di un rapporto che diventerà sempre più equivoco e sospetto. Noi ci fermiamo qui con il racconto del film, sperando di avere così seminato le tracce di un film che appartiene a quel versante della produzione di Tornatore che non è quello dei Colossal, non è quello di Baria, non è quello di Malena, è quello invece dei film più intimisti, spesso a tinte gialle. Pensate a Una pura formalità, pensate alla Sconosciuta. Ecco, siamo sicuramente più da quelle parti. Un film sul vero e sul falso, fondamentalmente, un film che ha sicuramente dei meccanismi a volte forse un po' troppo annunciati, ma che ha una raffinatezza di racconto, anche devo dire una certa originalità di racconto. È un copione originale questo che Tornatore ha messo insieme con due anime, un vecchio progetto a cui pensava da tanto e uno che è stato incastonato letteralmente sopra, che ha una origine più recente. Insomma, un film che trova una sua originalità di racconto e anche di pathos che riesce a creare, almeno fino a un certo punto, per lo spettatore di oggi, che invece è abituato a copioni che sembrano scritti quasi col computer, non solo manualmente, ma anche proprio nei loro picchi e nei loro avvallamenti. Boris, ti è piaciuto questo nuovo film di Tornatore? Molto, sono d'accordissimo con te sul fatto che appunto appartiene a quel filone di Una pura formalità e La sconosciuta, che aggiungo io è il più sottovalutato, ma il migliore di Tornatore. Tornatore, a mio parere, è un regista straordinario che, quando non si fa schiacciare dalle sue stesse enormi ambizioni produttive, riesce ad accontentare le sue grandi ambizioni registiche, e quindi quando non viene appesantito da sogni come Baria e forse in futuro, chissà, sta diventando un film maledetto, Leningrado, riesce a dimostrare come la sua macchina da presa, come anche la sua capacità di scrivere e di descrivere sia potentissima. Qui, come dice, è un film sul vero e sul falso, è un film sull'arte, è un film su quanto sia importante, e questo è curioso che lo faccia proprio Tornatore, celare invece che mostrare. E parliamo di un regista che invece mostra moltissimo, che evidenzia moltissimo ciò che ha sullo schermo. E qui quasi gioca contro se stesso, gioca contro tutte le sue abitudini. Forse gli unici difetti si possono trovare in uno stile di narrazione che è fin troppo classico, quasi vecchio tra virgolette, ma questo rappresenta anche un grande fascino del film, perché si ravvede, diciamo, uno spirito hitchcockiano e a volte un occhio kubrickiano, quindi siamo su alti livelli. Mi è dispiaciuto un po' per quel finale in cui, dopo che si è giocato sul nascondere e svelare, svelare pochissimo e nascondere tantissimo, si è descritto troppo, si è raccontato troppo, si è spiegato troppo. Però davvero, a mio parere, poi tra l'altro ha fatto un ottimo casting, Gene Sturges, Geoffrey Rush, a mio parere sono tra i migliori attori della loro generazione. Mi è piaciuto tantissimo anche come nel momento in cui si racconta un personaggio come Virgil, che fa della sua scontrosità, della sua misoginia, della sua misantropia una forma di potere di fatto, nel momento in cui incontra qualcuno che di questo potere sa fare un uso probabilmente dettato dalla necessità migliore, ne viene soggiogato e soccombe, quindi l'arma che ha usato per tutta la vita per allontanare le persone e dedicarsi solo all'arte diventa l'arma puntata su se stesso. Quindi davvero un film notevolissimo che ho apprezzato molto, e dopo una pura formalità secondo me è davvero il migliore di Tornatore. E questo allora la migliore offerta. Boris, rimani con noi perché fra poco dobbiamo parlare di un altro paio di titoli, però è arrivato adesso il momento di giocare, di cominciare a giocare insieme, di scoprire il film misterioso di questa settimana, il primo dell'anno, da questa clip. Tornate qui, avete firmato un contratto! Sì, ma temo che la normativa sul lavoro sia più indulgente in Francia. Vedi, devono lavorare solo 2 settimane l'anno. Ecco un altro che ha l'etica lavorativa dei canadesi. La Rosa Purpurea @radio24.it è da sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, e come sempre dovete dirci di che film si tratta, se l'avete già indovinato, e più tardi noi vi daremo un altro paio di consigli, un altro paio di tracce per provarci. Boris Sollazzo ancora in collegamento con noi. Boris, volevo parlare con te brevemente di un film che ha torto in questo bailamme di una distribuzione ormai molto difficile per il cinema altro da quelli che sono i canali mainstream, che siano italiani, europei o internazionali, poco importa, rischia un po' di rimanere schiacciato, ma che invece merita una visione e merita sicuramente una citazione. Parliamo di Buon anno Sarajevo di Aida Begic, è un film che ci riporta su quelle che sono le conseguenze di una guerra mai finita, in un certo senso, per più di una generazione ormai, che si è allontanata da quel conflitto bellico che all'inizio degli anni 90 spaccò in due l'Europa, ma che sembra non avere trovato quella pace che forse sembrava anche troppo frettolosamente essere stata attribuita a quella zona, appunto ai Balcani, a Sarajevo in particolare. È assolutamente un film clamoroso, mi permetto di fare una nota autobiografica. Boris viene dai Balcani e io ho origini balcaniche, e Sarajevo era una delle città, come dicevate nei titoli di testa, più cosmopolite, multiculturali e allegre culturalmente, intellettualmente e anche spiritualmente che io abbia mai visto. E qui si racconta come Sarajevo, probabilmente con la guerra, non ha perso ponti, non ha perso monumenti, non ha perso solo quelli, non ha perso tanti abitanti, ma ha perso soprattutto la sua anima. È diventata una città triste, è diventata una città che è stata uccisa dentro e che adesso è il fantasma di quello che era. E Aida Begic, secondo me, racconta meravigliosamente questa terribile situazione e racconta anche come quella guerra sia stata talmente crudele, talmente cruda, talmente feroce che le vittime sono state dimenticate, alle vittime non viene riconosciuto il proprio dolore. E Maria Pichic, straordinaria attrice, che secondo me farà una grande carriera, incarna il tentativo di reagire, cioè ha perso i genitori, è rimasta col fratello, la sua unica, il suo unico obiettivo è proteggere il fratello e proteggere se stessa attraverso un velo, attraverso la religione. E religione da, che ad altri fa paura, in quella città che era straordinariamente tollerante, adesso una donna che vive la sua fede musulmana in maniera privata, anche se è evidente, fa paura e viene attaccata ferocemente. Ecco, è pieno di contenuti ma è anche molto agile. Buon anno Sarajevo, a mio parere potrebbe essere uno dei film del 2013, uno dei più bei film del 2013, perché è un film intimo ma anche collettivo, è davvero di una straordinaria potenza nel raccontare una quotidianità così difficile che a un certo punto diventa persino kafkiana. Quindi ecco, mi sento di dire che è sicuramente il miglior film della settimana, potrebbe essere uno dei migliori film dell'anno. Rischio che non corre mai Stati Uniti, dobbiamo dire, che però vogliamo citare per sempre per rispetto, insomma, ai tentativi del cinema italiano di provare, insomma, ad affermarsi anche presso il proprio pubblico. Però ci avevano detto che questo era stato il Natale senza cinepanettoni, passato Capodanno ne è arrivato subito uno, perché questo mai Stati Uniti, a mio modo di vedere, non è altro che una sorta di cinepanettone travestito e profumato esteriormente con le pretese di fare una notte da Leoni De Noantri, per intenderci, no? Cinque fratelli che non sapevano di essere fratelli, che vengono a conoscenza di questo loro, o forse anche un po' immaturi, devo dire, in un certo senso, comunque cinque che vengono a contatto fra di loro con la pretesa di una eredità da andare a ritirare solo se si cospargeranno le ceneri del padre, ignoto di tutti, negli Stati Uniti, in un certo posto epico degli Stati Uniti. Insomma, una scusa per varcare l'oceano e fare la commedia al di là di esso, dove ci sono personaggi caratteristici come Ricky Memphis, rispettabilissimi, che hanno contribuito in maniera determinante ad alcuni dei film più riusciti di questo tipo degli ultimi tempi, dove c'è un Vincenzo Salemme la cui stagione migliore sembra essere passata, dove ci sono bellezze come un Ambra Angiolini che sembra non riuscire mai a determinare la strada maestra della sua carriera, o come Anna Foglietta, dove c'è un Giovanni Verne che, a mio modo di vedere, non c'entra nulla col cinema, quando invece c'entrava con il suo personaggio di Johnny Groove, con la comicità. Insomma, 30 secondi, Boris, perché quelli ci sono rimasti in questa parte della trasmissione, per raccontare i motivi di un flop. Che poi magari in sala non sarà così, però questo ci interessa fino a un certo punto. No, in sala non è così, perché almeno dalla prima giornata, dai primi due giorni, è stato positivo il riscontro del pubblico. Però hai solamente ragione su tutto. Ma gli Stati Uniti è un film mediocre. La cosa curiosa è che da 20 anni a questa parte la produzione manziniana, se si esclude il pranzo della domenica, risponde a questi dettami, e anzi, ma gli Stati Uniti, inquietantemente, è una delle loro cose migliori da Sognando la California in poi. Come hai detto, si mettono insieme tanti fattori che potrebbero essere anche buoni, perché Salem l'ho visto anche peggio, la Foglietta e l'Angiolini secondo me trovano anche un registro comico abbastanza interessante, c'è un Mattioli che riempie in quei pochi minuti tutto il film. Però davvero si ha l'impressione di avere di fronte un cinema vecchio. I Manzina non sembrano essersi scrollati dagli anni Ottanta, solo che lo fanno ancora in maniera ancora più sciatta, in maniera ancora forse più disinteressata, e cose che ormai non fanno più ridere non vengono raccontate nemmeno nella maniera giusta. D'accordissimo con te su Vernia, e tra l'altro credo che la sua imitazione di De Niro sia una delle cose più urticanti che si siano viste nella storia del cinema. Assolutamente, almeno di questo film sicuramente è così. Ancora Rosa Purpura, ancora cinema in sala qui su Radio 24. La terza parte del nostro programma si apre con un film che in America ha avuto un notevole successo in sala. Il film si dice che ha rilanciato Tom Cruise dalle sue disavventure personali, che potevano aver incrinato un'immagine che è sempre molto importante per le star hollywoodiane, perché poi spesso si tende a mettere insieme il privato e il pubblico, e invece qui Tom Cruise è sicuramente riuscito a impersonare suonare, a incarnare, come aveva già fatto più volte in carriera, perché lui è uno capace a fare questo, a incarnare questo antieroe, vogliamo chiamarlo, questo personaggio tanto, come dire, influente nella sua sfera quanto capace di stare in disparte, di non far sapere chi è. Questo Jack Reacher parte, muove da una giornata qualunque in una tranquilla cittadina americana. Cinque persone vengono uccise mentre stanno facendo la loro vita di tutti i giorni in riva al fiume, così, sembra a caso, in realtà non c'è niente lasciato al caso. Le prove però portano ad un uomo, un ex militare, un cecchino addestrato, che viene preso in custodia dalle autorità, viene menato in maniera abbastanza ruvida nel blindato che lo sta portando verso il carcere. E lui cosa fa? Lui lascia un messaggio, dice: trovate Jack Reacher. Come dire, Jack Reacher potrà darvi la soluzione, potrà scagionarmi, ma trovarlo non è così semplice. Jack Reacher è un fantasma. Nessun finanziamento, niente fermo posta, cellulare, email, niente. Puoi dirmi almeno chi è? Posso dirti chi era. Un maledetto militare, nato e cresciuto in basi all'estero. Il primo viaggio negli Stati Uniti l'ha fatto per frequentare West Point. 4 anni dopo è partito per sempre. Iraq, Afghanistan, Balcani. Si è distinto in servizio. Silver Star, Bronze Star, Legione di Merito. E in più una Purple Heart. Ha prestato servizio quasi sempre nella polizia militare, da ogni punto di vista un brillante investigatore. E a quanto pare un piantagrane. Il bello è che sui due versanti delle indagini, dalla parte dell'accusa c'è un anziano e azzimato Richard Jenkins, sempre grande nelle sue interpretazioni, dall'altro sua figlia, che è l'avvocato dell'accusato di questi 5 omicidi. Jack Reacher si metterà sostanzialmente a servizio della ragazza, nascerà fra i due non il banale amore, il banale bacio, ma sicuramente una grossa intesa, diciamo così, professionale, e le indagini andranno avanti, anche perché Jack Reacher è uno che nel suo cerca di usare la violenza il meno possibile e ha anche una certa filosofia. È l'ultima occasione di rinunciare. Puoi scherzare, siamo 5 contro 1. Siete 3 contro 1. Non sai contare? Una volta tolto di mezzo il capo, che sei tu, dovrò vedermela con 1 o 2 entusiasti gregari. Gli ultimi 2... scappano sempre. È interessante questo calcolo durante una rissa che sembra apparentemente una rissa da bar, ma in poi in fondo non sarà così. Boris, Tom Cruise, a mio modo di vedere, è promosso in questo film. Il film tutto sommato si fa guardare fino alla fine e io pagherei il biglietto solo per la parte di Robert Duvall nei piani del vecchio gestore di una poligono di tiro, grande capacità di conoscere le armi, che veramente vale l'entrata in sala. Mi hai rubato le parole di bocca, perché anch'io sono entusiasta della performance di Duvall nel film. Su Tom Cruise, francamente, secondo me è uno degli attori, dei divi più sottovalutati dalla storia moderna del cinema. È secondo me un attore validissimo, e lo ha dimostrato in film spesso commerciali. In questo caso ha adottato un regista, cioè McQuarrie, con cui ha fatto già Operazione Valchiria, era lo sceneggiatore McQuarrie. E probabilmente dirigerà lo stesso regista Mission Impossible 5, quindi si è creato un sodalizio, si crea sulla base di questo Jack Reacher, che viene tratto dal nono libro di 17 di una saga che in America ha fatto grandissimo successo, scritto da Lee Child, che è lo pseudonimo di Jim Grant, e chiaramente con questo si spiega il grande successo americano e quello meno clamoroso in Italia. Il film è molto, secondo me, divertente per chi ama il modello appunto dell'eroe, dell'antieroe che arriva e sana le ingiustizie e poi torna nell'ombra, un po' per chi ricorda una serie televisiva della Rai di qualche anno fa, un po' alla Gerard. Forse è troppo classico, forse è troppo prevedibile e sicuramente sconta il fatto di dirci praticamente tutto nei primi minuti e quindi di levare suspense al racconto. Quella suspense però viene riempita da un buon ritmo e da un Cruise che, secondo me, qui ci dice non solo che continua ad essere bravo, non solo che questi eroi o antieroi gli riescono bene, ma anche che forse ha perso uno dei suoi difetti, cioè il non saper invecchiare. Qui c'è qualche ruga in più, c'è un uomo che dimostra di più i suoi anni e la cosa gli dona sia a livello umano sia a livello recitativo. non parliamo di un capolavoro, parliamo di un film di genere, anche piuttosto prevedibile, ma come hai detto tu, io il biglietto lo pagherei tranquillamente per passare un po' di tempo divertendomi con del sano cinema commerciale. Bene, Boris, grazie per averci così fatto compagnia in questa prima parte del nostro programma con le novità in sala. Appuntamento alla prossima settimana. È sempre un piacere, alla prossima settimana. E allora abbiamo esaurito per il momento la parentesi cinema in sala, adesso fra poco parliamo invece di quello che c'è rimasto del 2012, top and flop, vincitori e vinti, secondo gli ascoltatori della Rosa Purpurea, secondo i lettori di Chuck, insomma quando il cinema lo decidono e lo classificano gli spettatori e gli appassionati. Prima però dobbiamo giocare ancora insieme con la seconda traccia del nostro game. Che vuoi fare? Piantare tutti in asso? Spettacolo funziona anche senza di me. Senti, io ho un piede sinistro che funziona bene, ma senza il destro non posso camminare. Trovi piede finto, così cammini. Non voglio un piede finto. Va bene? Oh. Che ne è di quelli del circo restano sempre uniti? Lo spettacolo continua. Cliché. E allora, la Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta? Vostro nome, cognome, indirizzo, mi raccomando, nella mail insieme al titolo del film e più tardi avremo l'ultima traccia. E allora, tutto è cominciato qualche giorno fa. Sulla nostra pagina Facebook, vi ricordo, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, unitevi alla nostra comunità, non voglio chiamarla community, non mi piace, comunità, al popolo della rosa, come lo chiamiamo io e Giorgio De Luca. Insomma, perché poi potete partecipare, come hanno fatto questi ascoltatori durante la settimana, dirci la vostra, sentire in podcast la trasmissione, insomma, fare un po' il punto, fare un po' l'agora, la piazza mediatica del cinema. Beh, dicevo, inizio settimana un ascoltatore mi dice: ci dica secondo lei quali sono i 10 film più belli del 2012. Io stilo una classifica che trovate su Facebook. Gli ascoltatori e soprattutto i nostri, il popolo della rosa, appunto, comincia a postare, a dire la sua, secondo me questo, secondo me questo. Io ho tirato empiricamente una riga e per quello che vale, cioè vale per quelli che hanno partecipato evidentemente, viene fuori che il film migliore della 2012 per gli ascoltatori della Rosa Purpurea è, con qualche lunghezza di vantaggio, devo dire, Quasi Amici. È per i miei documenti, per l'ufficio collocamento. Lei ha il sussidio di disoccupazione. Come si sente a vivere alle spalle degli altri? Io bene, lei? Pensa che potrebbe essere capace di lavorare? Veramente spiritoso. Talmente spiritoso che la prendo in prova per un mese. Non reggerà 2 settimane. Non ci credo, è pazzesco. Allora abbiamo finito di giocare? Non sapete niente, proprio niente. E la gonna non ce l'ha? No, quelle sono calze di sostegno. Se non le metto rischio di cadere. Io le calze non gliele metto. Lo dico anche per lei. Chi se ne frega se cade? A un certo punto bisogna... Le calze no, non le mettiamo. Perché ha vinto Quasi Amici? Perché ha saputo mixare, perché ha vinto anche al botteghino ovviamente, soprattutto lì, perché ha saputo mixare l'anima del film, la capacità di commuovere, anche di far sorridere, l'assenza di retorica, che insomma è un valore assoluto con i tempi che corrono, e ha saputo coniugare il cinema per il grande pubblico, la capacità appunto di raggiungere un pubblico vasto per il linguaggio cinematografico scelto, al tema, alla tematica sicuramente originale. Questo è stato sono stati gli ingredienti che probabilmente hanno anche fatto trionfare il film fra i nostri internauti. Tra l'altro su Facebook, nel nostro specialissimo palmarès, si è piazzato al secondo posto Amour di Michel Haneke, Palma d'Oro al Festival di Cannes, filmone intensissimo, duro, sulla terza età, un film di tutt'altro genere, in un certo senso con qualcosa in comune, però sicuramente con la mano di Michel Haneke tutto diventa diverso, e questo anche a sottolineare una certa cinefilia, diciamo, del nostro pubblico. In questi giorni, sul numero in edicola, in questa settimana, uscito da pochi giorni, e per questo mese, Chuck fa la stessa cosa. Ovviamente Chuck lo fa da prima, se vogliamo, insomma, col suo pubblico, scheda, diteci top and flop del 2012. Allora, siamo in collegamento con Piera De Tassis, direttore, direttrice, direttora di Chuck, la grande amica anche del nostro programma, e a Piera voglio chiedere cosa è rimasto impigliato nella rete del 2012 per il pubblico di Chuck. Tiene impigliato nella rete con grande cupidigio, come gloriosamente dici tu, soprattutto Il Cavaliere Oscuro e Ritorno come miglior film dell'anno, Tom Hardy che è il miglior attore e il miglior cattivo ed è Bane appunto del Cavaliere Oscuro e Ritorno, miglior regista Christopher Nolan, regista di Il Cavaliere Oscuro e Ritorno, Direi che è un emplen del Cavaliere Oscuro. E in realtà, guarda, è proprio il film simbolo del lettore di Chuck, no? Il grande cinema americano d'autore che rilegge il comics, quindi poi c'è dentro proprio tutto. Io sono molto d'accordo su Tom Hardy personalmente, anche sul film, ma su Tom Hardy non ho dubbi. Mentre se stiamo ancora parlando di film, come miglior rivelazione Quasi Amici, che credo assomigli al vostro sondaggio, e poi Cosa buttano via? Beh, questo è interessante perché buttano via insieme Tim Burton e Johnny Depp, che sono i due grandi miti del lettore di Chuck fino all'anno scorso. Ma con Dark Shadows sono rimasti molto delusi e giustamente, dico io e aggiungo e sottolineo. E la migliore attrice? Beh, la migliore attrice che ci siamo dimenticati finora di citare è, per fortuna, la grandissima Jessica Chastain, che tra l'altro sta per ritornare e stiamo per scoprirla anche in Italia con il film di Catherine Bigelow o Bigelow, dipende dalle edizioni, ma che probabilmente i lettori hanno molto amato in The Help e in Lawless. Certo, Lawless è stato poco visto sfortunatamente in Italia, bellissimo film, comunque mi pare la giusta rivelazione dell'anno, proprio anche la giusta affermazione dell'anno. Quanto al cinema italiano, ci sono cose che emergono e cose che sono state, diciamo, distrutte dai tuoi lettori? Guarda, noi sul cinema italiano abbiamo smesso quasi di considerare il peggio, perché tanto vinceva sempre, da noi vinceva sempre il cinepanettone, il cinepanettone, il cinepanettone. Abbiamo detto, vabbè, basta, perché abbiamo capito. Quindi li abbiamo lasciati liberi di sfogarsi sul meglio. Il miglior attore italiano, ci avrei scommesso di tutto, è Pier Francesco Favino, che mette d'accordo l'inclito e il colto, il giovane e il vecchio e tutto quanto, e la migliore attrice è Micaela Ramazzotti, dalla stessa, direi, la fonte è la stessa del film di Carlo Verdone, Posti in piedi in paradiso. Quindi, insomma, vince la commedia comunque quando siamo sul versante Italia, ma quella commedia, che è una commedia già alta, d'autore con un riferimento anche sociale, che è quella di Carlo Verdone. Diaz è la sorpresa, e questa è la vera sorpresa, perché vince come miglior film e quindi batte appunto tutti i film che potete immaginare, sia Verdone che per esempio i Taviani, che arrivano mi pare secondi in questa classifica. Però il miglior film italiano per il lettore di Chuck, che evidentemente è anche un lettore giovane, insomma, comunque, è Diaz di Daniele Vicari, e sono molto felice anche di questo. E allora, grazie a Piera De Tassis, va detto che Cesare deve morire, Cesare non deve morire, è anche il Cesare deve morire, avevo detto giusto, è anche il film italiano più apprezzato dai nostri amici della pagina Facebook della Rosa Purpurea. Vi ricordo ancora, andate e cliccate mi piace. Eccoci qui al rush finale con i consigli per le visioni domestiche. Noi cominciamo come sempre e come abbiamo fatto anche durante le feste di Natale e Capodanno da Film TV, dal settimanale Film TV, con il quale siamo andati a raccogliere un paio di segnalazioni sui palinsesti in chiaro gratuiti del digitale terrestre della prossima settimana. Cominciamo subito con l'accogliere e l'augurare buon anno anche al nostro e vostro Giulio San Giorgio da Film TV. Ciao Franco, un ben ritrovato ai nostri radioascoltatori. Allora Giulio, cominciamo subito con le novità che riguardano appunto la televisione, i film da vedere in TV, andando indietro di una trentina d'anni, quando Nagisa Oshima firmava un film che è rimasto davvero un cult, un film davvero strano, come Furio, o Furio come dice qualcuno, interpretato da David Bowie, da Tom Conti, da Ryuichi Sakamoto, da Takeshi Kitano. Insomma, un film che è stato seminale rispetto a molto cinema a venire. Sì, Furio, lunedì su Rai Movie a luna di notte, siamo a Java nel 1942 e l'arrivo di un prigioniero inglese, niente poco di meno che interpretato da David Bowie, scuote le certezze del comandante di un centro di prigionia giapponese, che altri non è che la rockstar, popstar Ryuki Sakamoto. Oshima, autore principe della modernità cinematografica giapponese, la cui poetica è riassumibile nel confronto tra il rito e la rivolta, mette in scena il confronto tra due culture e due uomini in un teatro di guerra e in un confronto fatto che è anche violento, ma anche molto molto erotico. Un capolavoro con personaggi all'apparenza secondari come Tom Conti, che fa il narratore, e Takeshi Kitano. E allora l'appuntamento con Furio è lunedì 7 gennaio alla 1 di notte su Rai Movie, film che se non l'avete visto dovete vedere, se l'avete visto potete rivederlo perché ne vale sempre la pena. Un film forse un po' meno famoso, un po' meno seminale, un po' meno cult, ma altrettanto divertente e molto molto nero, è un film invece di pochi anni fa che si intitolava In Bruges, la coscienza dell'assassino, era il sottotitolo che ci aveva messo la distribuzione italiana, con Colin Farrell e Brendan Gleeson e Ralph Fiennes, quindi con un cast di tutto rispetto, incastonato dentro la bellissima cittadina fiamminga di Bruges, dove ne succedono di tutti i colori. Esattamente, martedì su Rai 4 alle 23:10 in Bruges. La loro ultima missione è andata storta e due sicari sono portati dal loro capo a stare a Bruges, devono rimanere lì in attesa. Martin McDonagh si affida a due divi, due attori strepitosi, Brendan Gleeson e Colin Farrell, per mettere in scena un noir decisamente atipico nel purgatorio di una città che per uno dei due protagonisti irlandesi sembra un inferno. Forte di ascendenze teatrali che si vedono tutte riflesse in un copione sopraffino, McDonagh gira una commedia drammatica e grottesca che guarda Beckett e soprattutto pare l'aggiornamento di uno dei capolavori del teatro dell'assurdo, che è il Calapranzi di Harold Pinter. E allora questo è l'appuntamento con In Bruges, martedì 8 gennaio 23:10 su Rai 4. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Bene, bene, come sempre tanti spunti anche dai palinsesti televisivi. Terza e ultima possibilità per voi di indovinare e vincere il film misterioso di oggi. È brutta da stecchire uno scarafaggio. Non è una signora, è il re di Versailles. E quello non è il re di Versailles, è uno scimpanzé. E gli scimpanzé sono come il fumo. E dove c'è fumo c'è arrosto, e per arrosto intendo i pinguini. Beh, qui c'è stata una segnalazione, come dire, che avrà il suo peso, anche se vedo che i nostri amici, qualcuno si è già avvicinato molto. Allora, alla Rosa Purpure, a chiocciola radio24.it, di che film si tratta, titolo, vostro nome, cognome, indirizzo, al più veloce e bravo fra quelli che indovineranno il sabato e la domenica arriverà il Blu-ray di questo film che recensiremo la prossima settimana. E invece nell'ultimo game dello scorso anno avevamo giocato con questo film. Questa bomba è armata e questa bomba è mobile e l'identità di chi la farà esplodere è un mistero, perché uno di voi ha in mano l'innesco. Ne abbiamo parlato poco fa anche con Piera De Tassis, si trattava del nuovo, ultimo episodio della saga di Batman. Hanno indovinato e riceveranno il film Yuri Magoga di Maserada sul Piave, provincia di Treviso, e Luca Nasi da Spilamberto, provincia di Modena. E allora, questi vincitori, tutto, ma proprio tutto, sulle edizioni in un video dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, da Warner On Video, una prestigiosa edizione per l'alta definizione, sono due dischi Blu-ray. Il film ha una qualità assolutamente strepitosa, però attenzione che il formato dell'immagine cambia repentinamente a causa delle riprese native IMAX e l'impiego da parte di Nolan di negativo 35 e 65 mm. L'audio Dolby Digital multicanale identico al DVD per l'italiano, da sala cinema l'originale inglese DTS ad alta risoluzione. Sul secondo disco Blu-ray ci sono tantissimi extra per scoprire i segreti della lavorazione, approfondire la produzione, il lavoro su scenografie, effetti digitali e meccanici, gli stuntmen, scoprendo immagini addirittura inedite di previsualizzazione. Non manca nemmeno l'app per gestire il film tramite secondo schermo su smartphone o tablet, e c'è anche la copia digitale. Ebbene, allora questo è Il Cavaliere Oscuro, ci siamo dimenticati nella foca il titolo, ma insomma il ritorno, il film appunto che è stato fra i film dominanti sicuramente della stagione 2012. Andiamo alla prossima segnalazione con il nostro Claudio Pofi, quindi recensioni per film nuovi in videoteca, con un film che ha segnato un capitolo molto molto particolare della storia del musical, La piccola bottega degli orrori. Che razza di pianta è questa, Seymour? Non lo so, forse è una specie di acchiappamosche, ma non riesco a trovarla in nessuno dei miei libri. Intanto le ho voluto dare un nome. L'ho chiamata Audrey 2. Come me? Vede, signore, se lei mettesse una pianta strana e interessante come questa qui in vetrina, chissà, forse... Forse cosa? Forse cosa? Ma non ti viene in mente quanto puoi essere ridicolo? Solo perché si mette una pianta strana e interessante in vetrina? Secondo te la gente... Chiedo scusa, ma ho notato quella pianta strana e interessante in vetrina. Che cos'è? Nella periferica New York anni 60, il negozio di fiori del signor Musnick, in crisi da tempo, è salvato dal maldestro aiutante Seymour, che nel corso di una eclisse totale di sole scova una misteriosa pianta di cui inizia a prendersi cura. Carnivora e succhia sangue, il giovane si renderà ben presto conto di avere a che fare con un mostro spaziale che intende invadere la Terra. Da Warner Home Video, la commedia Gioiello del 1986, diretta dal grande Frank Oz, arriva in alta definizione in un disco doppia versione. La cinematografica è l'inedita di Director Scott, che include un finale alternativo tanto ricercato dagli appassionati nella prima versione DVD. La visione evidenzia una certa grana legata all'originale cinematografia. Il formato immagine è prossimo ma non identico all'originale. L'audio è Dolby Digital monofonico per l'italiano e di grande risalto invece è DTS ad alta risoluzione per l'inglese, unica traccia tra l'altro ascoltabile scegliendo la Director's Cut. Ci sono extra interessanti, il commento del regista, due dietro le quinte, scene tagliate, tra cui appunto il finale alternativo, e tra l'altro il prodotto è venduto in confezione Digibook da collezione. E allora, questo per quanto concerne la piccola bottega degli orrori, 1998, parata di star che vanno da Jeff Bridges a John Goodman, da Steve Buscemi a Julian Moore, a Philip Seymour Hoffman, a Ben Gazzara, ma soprattutto, fatemi dire, a John Turturro nel Grande Lebowski. Lei ha un impiego, signor Lebowski? Un momento, aspetti che le spieghi una cosa. Io non sono il signor Lebowski, lei è il signor Lebowski. Io sono Drugo. È così che deve chiamarmi, capito? O se preferisce Drughetto, oppure Drugantibus, oppure Drughino, sei di quelli che mettono il diminutivo ad ogni costo. Lei ha un impiego, signore. Impiego? Nella Los Angeles anni 90 vive il nulla facente Jeffrey Lebowski, detto Drugo, amante del bowling, della marijuana e dei cocktail White Russian. La sua oziosa e pacifica vita è interrotta quando, per un errore di omonimia, misteriosi individui lo confondono per un miliardario a cui vogliono estorcere denaro, brutalizzando e coinvolgendo lui e i suoi due più cari amici in un finto rapimento. La commedia cult dei fratelli Coen del 98 torna in alta definizione da Universal dopo la precedente uscita in Blu-ray di CG Home Video. Il nuovo Blu-ray è di strepitosa qualità d'immagine, ha audio DTS in italiano ad alta risoluzione, anche in inglese sicuramente superiore. In questa nuova edizione tanti extra per scoprire i segreti della lavorazione, con tre approfondimenti su produzione cast, ricordi dal set e analisi dei motivi che hanno trasformato quest'opera in cult movie. E allora, questo per quanto riguarda il Grande Lebowski, grazie al nostro Claudio Pofi e le segnalazioni in un video. Tornano la prossima settimana. Ciao Claudio. Ciao, a presto. E allora, le note della nostra sigla ci dicono che è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo, come sempre, per tutta la settimana, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpura Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi, a quel punto avrete tutti i giorni qualcosa su cui discutere, i nostri consigli di visione il giovedì, le mie personalissime, per carità, per quel che contano ovviamente, piccole, mini segnalazioni appena visti i film in anteprima, così cominciamo ad animare il dibattito, come è capitato l'altro giorno con Django Unchained di Tarantino, il che ha fatto partire una bella discussione sul web, e poi chiaramente ne parleremo qui in trasmissione. Potete scaricare la trasmissione il lunedì in podcast, insomma c'è sempre un motivo per essere collegati alla pagina Facebook della Rosa Purpurea. A me non resta che salutare chi ha reso possibile questa trasmissione: Giorgio De Luca, come sempre ineffabile in redazione, il nostro Roby Roberto Scaltritti qui dall'altra parte del vetro. L'appuntamento va alla prossima settimana e, come sempre, il sabato alle 18, la domenica alle 15 e tante altre repliche notturne che so essere molto seguite. Voi siateci e soprattutto andate al cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.